in het voor. Fra, fra, bella ser, bella ser. De Radio Zero, bella PK, MM, volume 2. È vero, fra più vai lontano, più diventi grigio. È quello che credevi umano, vedi che è silicio. Ora se non so che fare, prendo droga a caso. Fin quando non mi scoppia il naso, la mia bocca è un puzzle. 2010 ero underground e diventavo pazzo. Pensa adesso che tutti mi osannano e non sanno un cazzo. Ringrazio ogni giorno me stesso per ciò che sono, fra altrimenti sarei rivaldato. Per comprare metà delle scarpe con il cabina armato, dovrei fare una rapina armata. Mo sto qua che fumo in pianta grazie a me, grazie al rap. È una banda troppo in gamba che mi ha ripagato. Sto ancora con gli stessi pazzi che ho capitanato. Giro dei cannoni maxi con la scritta NATO. Prendo questa roba senza la ricetta, voglio la mia quota in una valigetta. La tua merda in petta e bimbi varicella. Saluto la cena da una navicella. Il nordo da capre autentico, il tuo patetico. Prendo poi spingo le KR, KT medico. Un cero tuo asettico, dico per tappa o tecnico. Ho il cervello troppo grosso per il rap italiano. Ho l'uccello troppo grosso, occhio ai denti, fai piano. Giro coi fratelli nel mio aver tutto fatto i concerti. Mi addormento alle prove, non ti vedo Bocelli, non ti sento Beethoven. Sto con degli stronzi astuti, non facciamo patti, gratti grossi assurdi. Dalla merda al top come da sputi, non lo toccano il mio flow, bro, è Black Putin. Il mio stile è figo tipo che urli, ogni barra tre punti, Steph Curry. Voi vi siete venuti, deludri. Sì, ma vi hanno dato tre rubri. Se si parla dell'incastro sono un pilastro. So che viene dallo spazio in volo Neil Armstrong. Ma in Italia tocca regredire Picasso. Non capisci manco questa testa di cazzo. Fai con tanti pensi che mi batti, sei pazzo. Puoi giocare fino a quando non ti spezzi i pollici. Il tuo pubblico è medio tipo verso i 12. Se tu nel rap hai messo il record, io ho messo i codici. Parli, parli, me ne foto. Odi gli altri perché sei già con un piede sotto. Sopravvi ti ammazzo con un solo colpo. E quando sei morto ti chiedo i numeri del lotto.